Terzo anello, ad alta voce, Madame Bovary, di Gustave Flaubert. Alle 9 della mattina seguente, Emma fu svegliata da un rumor di voci in piazza. C'era un assembramento intorno al mercato. Tutti leggevano un gran manifesto affisso a uno dei pilastri. Vide Justin salire su un paracarro e lacerare quel foglio. Ma in quell'attimo la guardia campestre lo prese per il collo. Omè sbucò dalla farmacia. La vedova Le François pareva perorare in mezzo alla folla. «Signora, signora!» gridò Félicité facendo irruzione nella stanza. «È una vergogna!» E la povera ragazza, sconvolta, le tese un foglio di carta gialla che aveva strappato dalla porta. A Emma bastò un'occhiata. Tutti i suoi mobili erano in vendita. Allora si guardarono in silenzio. Tra loro due, serva e padrona, non c'erano segreti. Alla fine Félicité sospirò. «Se fossi in voi, signora, andrei dal signor Guillaumin». «Tu credi?» Si vestì, si mise l'abito nero e il cappello con i lustrini e per non essere vista, sulla piazza stazionava ancora molta gente, fece il giro esterno del villaggio, seguì il sentiero costeggiante il fiume. Quando arrivò davanti al cancello del notaio, ansava. Il cielo era cupo, veniva giù un poco di nevischio. Al richiamo del campanello, Teodora apparve sulla scala in panciotto rosso. Venne ad aprirle con familiarità, come ad una conoscente. La fece entrare in sala da pranzo. Il notaio entrò. Con la sinistra si stringeva contro il corpo la vestaglia a fiorami. Con l'altra mano si tolse e si rimise subito il copricapo di velluto marrone, pretenziosamente inclinato sul lato destro, su cui ricadevano le estremità di tre ciuffi biondi che, presi all'occipite, gli giravano intorno al cranio calvo. Le offrì una sedia. Poi si mise a sedere per far colazione. Continuava a chiederle scusa per quella mancanza di riguardo. «Signore, vi pregherei», disse lei. «Di cosa, signora? Vi ascolto». Lei prese a esporgli la sua situazione. Il signor Guillaumin non era certo all'oscuro, essendo segretamente legato con il merciaio, presso il quale trovava sempre i capitali per i prestiti ipotecari di cui veniva richiesto. Allora lei cercò di commuoverlo e, commuovendosi lei stessa, prese a raccontargli le ristrettezze della sua vita domestica, le difficoltà, le necessità. Lui lo capiva. Una donna elegante come lei. E senza smettere di mangiare, si era girato completamente dalla sua parte, tanto che con il ginocchio le sfiorava lo scarpino, la cui suola si curvava fumando contro la stufa. Ma quando lei si decise a chiedergli 1000 scudi, strinse le labbra, poi si dichiarò molto spiacente di non aver potuto, a tempo debito, curare i suoi interessi, poiché c'erano 100 maniere comodissime, anche per una dama, di far fruttare il proprio denaro. «Ma perché? Perché non siete mai venuta da me?» «Non lo so, non lo so proprio», disse lei. «Perché, dunque? Vi facevo tanta paura. Sono io invece che ho da lamentarmi. Ci conosciamo appena. Eppure vi sono così devoto. Non avrete più dubbi in proposito, posso sperarlo». Tese una mano, prese quella di lei, la coprì con un bacio vorace, poi se la tenne lì sul ginocchio e giocava delicatamente con le dita di lei, bisbigliandole un'infinità di cosette dolci. Lei si sentiva contro la guancia il soffio di quel respiro ansimante. Non lo poteva proprio sopportare. Si alzò di scatto, gli disse: «Signore, io aspetto». «E cosa?» disse il notaio, diventando di colpo pallidissimo. «Questo denaro». «Ma...» Poi si arrese all'irruenza di un desiderio troppo forte. «Ebbene sì». Si trascinava in ginocchio verso di lei. Non aveva il minimo riguardo per la sua bella vestaglia. «Vi prego, restate qui. Io vi amo». E l'afferrò per la vita. Un'onda di sangue salì alla faccia della signora Bovary. Indietreggiò con aria feroce. Disse: «Approfittate impudentemente della mia disperazione, signore. ma io son da compiangere, non da comprare. E uscì. Félicité l'aspettava sulla soglia. «Allora?» «Nulla», disse Emma. E per un quarto d'ora loro due passarono in rassegna le varie persone di Yonville che forse avrebbero potuto dare una mano. Ma ogni volta che Félicité pronunciava un nome, Emma replicava «Impossibile, non vorrà». «E il signore sta per rincasare?» «Come se non lo sapessi. Lasciami sola». Aveva tentato tutto. Ora non c'era più nulla da fare. Quando Charles fosse comparso, lei gli avrebbe dunque detto «Attento, qui non ci puoi più stare. Il tappeto su cui posi i piedi non è più nostro. Di casa tua non possiedi più un mobile, una spilla, una pagliuzza. Sono stata io a rovinarti, poveraccio». Allora ci sarebbe stato un gran singhiozzo. Poi lui avrebbe pianto abbondantemente e alla fine, passata la sorpresa, avrebbe perdonato. Sì, mi perdonerà. Lui che, anche se mi offrisse 1 milione, non potrebbe farsi perdonare di avermi conosciuta, mai e poi mai. L'esasperava proprio quest'idea della superiorità di Bovary su di lei. Ma si rendeva conto che, confessasse o non confessasse, subito o tra poco o domani, lui avrebbe ugualmente saputo della catastrofe. Dunque occorreva affrontare quell'orribile scena, sobbarcarsi il peso della sua magnanimità. Le venne voglia di tornare da Leroux. A cosa sarebbe servito? Di scrivere al padre era troppo tardi. Forse cominciava ormai a pentirsi di non aver ceduto al notaio, quando udì il trotto d'un cavallo nel viale. Charles apriva il cancello, era più livido del muro ingessato. Lei si buttò giù per la scala, attraversò di corsa la piazza. «Mamma Rolè!» disse arrivando dalla balia. «Soffoco! Slacciatemi!» Cadde sul letto, singhiozzava. Mamma Rolè la coprì con una sua sottana e restò in piedi accanto a lei. Ma non rispondeva alle sue domande e la brava donna finì per allontanarsi. Prese la rocca e si mise a filare il lino. «Oh, smettetela!» «Cosa la fa stare così?» si domandava la balia. «E perché è venuta qui?» Era corsa là, spinta dalla paura. La paura l'aveva scacciata di casa. Coricata sul dorso, immobile, gli occhi sbarrati, vedeva gli oggetti lì intorno solo confusamente. «Che ore sono?» chiese. Mamma Rolè uscì, alzò le dita della destra girandole verso la parte di cielo più chiara, rientrò a passi lenti, disse «Saranno presto 3:00». «Ah, grazie, grazie». Lui stava per arrivare. Certo, aveva trovato il denaro. Ma forse sarebbe andato a casa sua senza sospettare che lei fosse invece da mamma Rolè. Allora ordinò alla balia di correre a casa sua, di portarglielo lì. «Presto, sbrigatevi!» Ma, cara signora, vado, vado. Adesso si meravigliava di non averci pensato subito a lui. Le aveva dato la sua parola il giorno precedente, non avrebbe mancato. Si vedeva già Dalleux a sciorinargli sul banco i 3 biglietti da 1000. Poi avrebbe dovuto inventare una storia per spiegare le cose a Bovary. Che storia? Il cancello cigolò. Lei saltò su. Ma prima che potesse aprir bocca, mamma Rolè le disse: «E non c'è nessuno a casa vostra!» «Come?» «Oh, nessuno! E il signore piange, vi chiama, vi stanno cercando!» Emma non rispose. Ansava mentre roteava intorno gli occhi. Spaventata da quella faccia, la contadina indietreggiava istintivamente, credendola impazzita. D'improvviso lei si batté la fronte, lanciò un grido. Come un gran lampo in una notte buia, il ricordo di Rodolphe le aveva attraversato la mente. Era così buono, così delicato, così generoso. E d'altra parte, se lui avesse esitato a venirle in aiuto, avrebbe ben saputo costringervelo lei, ricordandogli con una sola occhiata il loro amore perduto. Si avviò dunque verso la Huchette, senza rendersi conto che andava a offrirsi proprio a quel che l'aveva tanto nauseata poco prima, senza minimamente sospettare che, insomma, andava a prostituirsi. Emma camminava e si chiedeva: «Cosa posso dirgli? Da dove posso cominciare?» E via via che avanzava, riconosceva i cespugli, gli alberi, i giunchi marini sulla collina, il castello. Salì lo scalone dritto con le balaustrate di legno che portava al corridoio pavimentato di pietre polverose, su cui s'apriva una fila di camere e camere come nei monasteri o negli alberghi. Quella di lui era in fondo, proprio in fondo a sinistra. Quando posò le dita sulla maniglia, si sentì di colpo abbandonata da ogni energia. Aveva paura di non trovarlo e quasi desiderava che non ci fosse. E tuttavia era la sua sola speranza, l'ultima possibilità di salvezza. Si raccolse per un attimo e, ritemprando il coraggio con la consapevolezza dell'implacabile necessità, entrò. Lui se ne stava davanti al fuoco, i piedi sul caminetto, fumava la pipa. «Ma guarda, siete voi!» disse e si tirò subito su. «Sì, sono io, Rodolphe. Vorrei chiedervi un consiglio.» Non le riusciva di aprir la bocca, nonostante tutti i suoi sforzi. «Non siete minimamente cambiata. Siete sempre incantevole.» «Oh!» «Tristi incanti, se voi li avete rifiutati, caro amico», replicò lei amaramente. Lui si ingolfò in una spiegazione della propria condotta. Usava termini vaghi, non sapendo inventare nulla di più preciso per scusarsi. Lei si lasciò affascinare da quelle parole, e più ancora dalla sua voce, dal suo aspetto. Così fece finta di credere, o magari ci credette davvero, al pretesto della rottura. Si trattava d'un segreto, un segreto da cui dipendeva l'onore e persino la vita di una terza persona. «Non importa più, ma io ho tanto sofferto», e sospirò. «Se tu sapessi, Rodolphe, quanto ti ho amato». E a questo punto prese la mano di lui e restarono per un poco con le dita intrecciate, come quel primo giorno ai comizi. Per orgoglio lui si ribellava alla commozione, ma gettandoglisi contro il petto lei disse: «Come volevi che vivessi senza di te? Non si può perdere l'abitudine alla felicità. Ero disperata, ho creduto di morire. Ah, ti racconterò tutto, saprai tutto. E tu? Tu che hai continuato a fuggirmi?» Da 3 anni, infatti, lui aveva cura di evitarla per quella istintiva vigliaccheria che contraddistingue il sesso forte. Ed Emma insisteva, scuotendo gentilmente il capo, più carezzevole di una gatta in amore. «Ci sono altre donne nella tua vita, confessalo». «Oh, le capisco, sai, e le scuso. Le avrai sedotte come hai sedotto me. Sei un uomo, tu. Hai tutto quel che occorre per farti amare. Ma noi ricominceremo, vero? Ci ameremo. Vedi, adesso rido, sono felice. Ma parla, dunque». Era talmente bella, una visione di sogno, con quegli occhi in cui tremolava una lacrima come una goccia di pioggia sulla corolla turchina di un fiore. Lui se l'attirò sui ginocchi, con il dorso della mano le carezzò le bande lisce dei capelli, su cui, nel chiarore del crepuscolo, un ultimo raggio di sole risplendeva come una freccia d'oro. Lei teneva la fronte china. Finì per baciarla sulle palpebre, lievemente, sfiorandola appena con le labbra. «Ma tu hai pianto? Perché?» Lei scoppiò in singhiozzi. Rodolphe credette a un'esplosione del suo amore per lui, e siccome ora si ostinava a tacere, prese quel silenzio per un'estrema manifestazione di pudore. Allora gridò: «Ah, perdonami! Sei la sola che mi piaccia! Sono stato imbecille e malvagio! Ti amo, ti amerò sempre! Cos'hai? Dimmelo!» E Jean si metteva in ginocchio. «Vuoi saperlo? Sono rovinata, Rodolphe! Devi prestarmi 3.000 franchi!» «Ma...» balbettò lui. Si rialzava lentamente e la sua faccia assumeva un'espressione severa. «Ah, ecco perché è venuta», pensò Rodolphe. Di colpo era diventato livido. Finalmente le disse con molta calma: «Ma io non li ho, cara la mia signora». Thank you. Rudolf diceva la verità. Se li avesse avuti, glieli avrebbe certamente dati, sebbene sia in genere spiacevole fare simili buone azioni. Di tutte le tempeste che possono abbattersi sull'amore, una richiesta di denaro è senza alcun dubbio la più crudele e sconvolgente. Lei restò a guardarlo in silenzio per qualche attimo. «Non li hai», ripeté più volte. «Non li hai? Avrei potuto risparmiarmi quest'ultima vergogna. Non mi hai mai amata tu. Tu non vali più degli altri!» Si tradiva, si perdeva. Rudolf l'interruppe, affermando che si trovava anche lui in difficoltà. «Oh, ti compiango! Sì, ti compiango molto!» disse Emma e posò lo sguardo su una carabina damascata che luccicava nella panoplia. «Ma quando uno è così povero, non butta via i soldi per un calcio di fucile. Non compra una pendola intarsiata!» continuò, indicando un orologio di bull, «né i fischietti dorati per le fruste!» E li toccò, «né ciondoli per la catena del taschino!» «Oh, non ti fai mancare nulla! Hai persino un portalicuori in camera! Perché ti vuoi bene tu! Tu vivi bene! Hai un castello, fattorie, boschi, cani, cavalli! Fai viaggi a Parigi tu! Oh, quando non ci fosse altro!» gridò prendendo dal ripiano del caminetto i gemelli dei polsini, «che la più piccola di queste sciocchezze! Ah, se ne potrebbe tirar fuori del denaro! Oh, non li voglio, tienteli!» E scagliò lontano i gemelli, la cui catenina d'oro si infranse, urtando contro la parete. «Ma io ti avrei dato tutto. Io avrei venduto tutto. Avrei lavorato con le mie mani, avrei mendicato in strada per un tuo sorriso, per un tuo sguardo, per sentirti dire grazie. E tu puoi restartene tranquillo nella tua poltrona come se non mi avessi già fatto soffrire abbastanza. Lo sai che senza di te avrei potuto vivere felice? Chi ti costringeva a rovinarmi? Lo hai fatto per scommessa? Eppure dicevi di amarmi, persino un attimo fa. Oh, avresti agito meglio scacciandomi. Ho le mani ancora calde dei tuoi baci. Eccolo lì il punto sul tappeto in cui mi giuravi in ginocchio eterno amore. Mi ci hai fatto credere. Per 2 anni mi hai fatto vivere nel più soave e magnifico dei sogni. Non li ho, rispose Rudolf con quella perfetta calma che ricopre come uno scudo le collere rassegnate. Lei uscì. I muri le oscillavano intorno. Il soffitto le franava addosso. Ripercorse il viale, incespicando nei mucchi di foglie morte che il vento andava disperdendo. Alla fine arrivò al fossato davanti al cancello. Si ruppe le unghie contro il catenaccio nell'impazienza di aprire. 100 passi più in là si dovette fermare. Era senza fiato. Stava per cadere. Vide suo padre, il bugigattolo di Lheureux, la loro camera laggiù, un altro paesaggio. Ebbe paura di impazzire. Cercò di riprendersi, anche se in modo confuso, è vero. Infatti, s'era dimenticata proprio la causa di quelle sue orribili condizioni, ovvero la questione economica. Soffriva soltanto del suo amore. Sentiva che l'anima l'abbandonava in quel ricordo, come i feriti, agonizzando, sentono che la vita se ne va nelle ferite sanguinanti. Cadeva la notte in un volo di cornacchie. Le parve d'un tratto che globi color del fuoco esplodessero nell'aria come palle fulminanti, appiattendosi, girando, rigirando, sino a fondersi con la neve tra i rami degli alberi. In mezzo a ogni globo la faccia di Rudolf. Si moltiplicavano, si avvicinavano, la penetravano globi e facce. Tutto scomparve. Riconobbe le luci delle case che ammiccavano lontano nella bruma. Allora la sua situazione le si spalancò davanti come un abisso.